известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy. Thank you, sir. The English is very good. Erano bei tempi quando a aspettare Silvio c'era un amico fidato come George W. Adesso invece ci risiamo, prove generali di nuova connessione con la Casa Bianca ad opera di Silvio Berlusconi. Tutto ciò in scena oggi a Washington, tra l'altro l'orario è leggermente slittato, si tratta adesso, secondo i siti ben informati, delle 4:15, delle 4:15 del pomeriggio, ovvero delle 10:15 della sera qui in Italia. Tra l'altro Obama è appena partito per Chicago, farà un discorso all'Associazione Americana dei Medici e poi ripartirà verso le 2 da Chicago per Washington. È atteso alle 3:30 alla base Andrews, arriverà in un quarto d'ora in elicottero alla Casa Bianca e troverà poco dopo nella sala d'attesa, diciamo così, Silvio Berlusconi per questo incontro di un'ora, molto atteso, molto annunciato, discretamente notato anche dai media americani, insomma, per quanto possa essere. L'ultima dichiarazione di Berlusconi è stata naturalmente spiritosa, ha detto: vado da Obama bello e abbronzato, però al di là delle battute sembrerebbe che l'incontro contenga premesse interessanti e argomentazioni certamente assai concrete, come del resto è giusto utilizzare 60 minuti messi a disposizione dal presidente degli Stati Uniti. I temi si sa quali possono essere: situazioni in Iran, Afghanistan, Libano, disponibilità ad accogliere i detenuti di Guantanamo, poi clima, naturalmente crisi economica e poi un uomo su un treno, si chiama Mario Platero, che giustamente, essendo americano d'adozione e uomo astuto col cavolo che prende l'aereo per andare da New York a Washington, e monta su un Amtrak dove speriamo che il collegamento ci assista. Buon mattino ferroviario, Mario, come stai? Grazie, grazie, buon mattino a voi, molto bene. Direi che il treno e la scelta del treno è derivata dalla complicità del tempo, che non è stato dei migliori, grandi piogge e tormente, quindi è più sicuro certamente prendere il treno in questi casi, ancora non rapidissimo come quelli che abbiamo noi, ma comunque soddisfacente. E dunque sì, ci avviamo, come dici tu, a questo incontro che sarà fra alcune ore, un incontro che secondo me sarà molto interessante, perché la verità è che Berlusconi nel suo profondo intimo ama l'America indipendentemente da chi si siede da chi è seduto nella Casa Bianca. Quindi ho sempre avuto un rapporto di straordinaria connessione emotiva con gli Stati Uniti. In questo caso sembra che abbia qualche difficoltà a trovarla, ma non soltanto lui, anche gli altri leader europei, certo, si trovano un pochettino in difficoltà. E quindi la cosa interessante, al di là delle tematiche che sono sul tappeto, sarà di capire dove, come, su che livello e in quale misura riuscirà a stabilire e a far capire ad Obama che lui è sinceramente aperto nei confronti di Washington e degli Stati Uniti, e che dunque questa amministrazione può trovare in lui un amico anche più sincero, se vuoi, di quelli che possono essere la Merkel o Sarkozy, che alla fine possono tutelare e difendere. Perché Mario, tu credi nel fattore umano, in sostanza, di questo genere di rapporti? Il fattore umano secondo te ha un peso rilevante in questo genere di relazioni? Lo ha certamente. Bisogna dire che Obama è un uomo molto riservato e quindi è un uomo molto riservato e con un approccio, direi, al rapporto umano diverso da quello che potevano avere Berlusconi e Bush. Bush era un uomo di club, era un uomo di compagnoni, era un uomo di battute e di pacche sulla spalla. cosa che era in perfetta sintonia, se vuoi, con lo spirito del nostro Presidente del Consiglio, e quindi i due andavano certamente molto d'accordo. Obama è più riservato, è più uomo da circolo del libro, un intellettuale, un uomo che più che la pacca sulla spalla preferisce trovare una sintonia di idee e di battute così, se vuoi, più raffinate sul piano dell'intelletto. Dunque le premesse non sono necessariamente le stesse, sono ovviamente molto diverse, e dunque su questo bisognerà lavorare, perché il rapporto sul piano personale è molto importante. Però il fatto che l'Italia arrivi portando delle concessioni, ci aspettiamo almeno, perché l'incontro non è ancora avvenuto, in materia di prigionieri di Guantanamo, e quindi ospitarli nel nostro paese, quindi togliere un po' di castagna dal fuoco a questa così cosa piuttosto importante su cui si è impegnato Obama, ma che ha presentato poi degli inaspettati ostacoli legali. Il fatto che Eccolo qua, ecco il famoso Amtrak Washington New York, che a un certo punto alla curva del terzo commuter lascia noi così con il fiato sospeso, per sapere dove stesse andando a parare il discorso di Mario Platero. Vi dirò intanto che lo staff che incontrerà Silvio Berlusconi è di primo ordine, c'è in realtà tutto il team di teste pensanti della squadra di Obama, ci sarà Hillary Clinton, ci sarà il consigliere per la sicurezza nazionale James Jones e ci sarà il capo di staff Rahm Emanuel. Abbiamo di nuovo Mario in linea, eccoci Mario. Eccoci, sì, siamo in galleria, quindi è un miracolo che riusciamo a sentirci, certo. Il treno avanza e gli incontri si avvicinano, certo. Quindi dicevo, si cercherà di trovare un pochettino questa nuova chimica, secondo me questo sarà l'aspetto più interessante, al di là delle varie tematiche individuali, G8, questioni economiche, Iran, Afghanistan e così via. Ecco, sull'Iran io ho come la sensazione che Obama voglia dire, beh ragazzi, non soltanto voi Italia, ma voi Europa, a questo punto andateci piano, perché qui io con la mia credibilità anche nei confronti del mondo islamico che ho stabilito, certo, e che ho affermato soprattutto col discorso del Cairo, posso avere un dialogo, un rapporto diretto, quindi un cambiamento di rotta secondo me lo vedremo soprattutto dopo queste elezioni iraniane dal parte dell'atteggiamento americano. Vediamo dove andrà a parlare Silvio Berlusconi. Ti giro Mario per concludere rapidamente una domanda che ci manda che ci invia un ascoltatore, mi sembra interessante, forse possiamo farci un rapido ragionamento sopra, proprio riguardo a Guantanamo. Chiede questo ascoltatore, secondo noi, sotto quale ombrello giuridico potremmo tenere in galera gente che non è accusata di nulla, si parla naturalmente in Italia, dove mettiamo insomma questi detenuti che eventualmente Berlusconi potrebbe concordare con Obama di trasportare nel nostro paese, che cosa se ne può fare? Ma vedi, la questione è leggermente più complessa, non è soltanto detenuti che si trovano così imprigionati senza un vero e proprio capo d'accusa. La questione è che molti di questi detenuti non possono rientrare nel loro paese. Certo. Prendiamo per esempio questo gruppo di detenuti di origine cinese. Ecco, se fossero stati espatriati, che praticamente hanno poco a che fare, si è scoperto poi con la questione dell'attacco dell'11 settembre, ma se gli americani li avessero liberati e li avessero rimpatriati come avrebbero dovuto fare, come richiedeva il governo cinese, beh, sicuramente il governo di Pechino li avrebbe probabilmente messi condannati a morte immediatamente. E dunque ecco che si pone anche, al di là degli aspetti tecnici che riguardano alcuni dei prigionieri, che sono una ventina, che sono quelli più direttamente coinvolti o sospettati di essere stati coinvolti con l'attacco dell'11 settembre, ce ne sono altri che sono in una situazione di limbo, perché non possono essere detenuti, non possono essere rilasciati, se vengono rilasciati e rispediti a casa rischiano di essere poi messi a loro volta in prigione, quindi c'è una questione così, se vuoi, di apolidi, sono in qualche modo degli apolidi, sono in un limbo giuridico. Ecco, noi accogliendoli lì terremo in detenzione, immagino in qualche modo anche protettiva, per poi stabilire se ci sono effettivamente dei capi d'accusa, si avvierà un processo giuridico che potrebbe essere diverso rispetto a quello che finora è stato negli Stati Uniti, che ha assunto questo atteggiamento di così procedure di militari combattenti, no? Certo. Non combat militants, e quindi di persone che erano sottoposte a una sorta di corte marziale e che quindi non erano soggetti al sistema giuridico americano. Ecco, sono questioni molto tecniche che andranno risolte, però ecco che buttando il cuore davanti alla palla, Berlusconi certo. Intanto li accoglie e dopodiché si troveranno le sistemazioni giuridiche per capire come, che tipo di condizioni, quali saranno, che tipo di prigionieri saranno, ecco certo. Tutto questo ancora non lo sappiamo. Va bene, ti ringrazio di questi pareri, di queste indicazioni. Mario Platero, in viaggio verso questo rendezvous multiplo, a questo punto Mario arriverà, secondo me, per pranzo, starà a Washington. Obama, come abbiamo detto, atterra soltanto pochi minuti prima dell'incontro con il nostro primo ministro, che invece è già in città, già nella capitale americana, in attesa poi alle 10:15 di incontrare Barack Obama. Domani ci torniamo su, vedremo come sarà andata. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. We'll go. Honey, I'm gonna snowball Jackson. See if I care. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. Huh. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat. 'Cause I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. Questo invece era un signore che viaggiava accompagnato dalla sua signora, Johnny Cash e June Carter. Questo era Jackson, uno dei pezzi più famosi del grande cantautore americano. Ci porta, prima di partire per scenari internazionali, ci porta al nostro notiziario. 360 gradi News dai punti sensibili del pianeta. Nel senso che poi dopo le notizie borsa ci sposteremo in Iran e poi più tardi ancora in Israele. Vai. E invece per adesso ci spostiamo in Cina, da dove rimbalzano notizie che possiamo mettere in connessione con quelle che arrivano anche qui dalla nostra Italia e dall'Europa sulla nuova influenza ormai definita con tutti i crismi purtroppo pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È arrivata anche la prima vittima europea e invece in Cina si viene a sapere che è previsto un aumento di casi, di contagi, di nuova influenza attraverso le cosiddette trasmissioni secondarie, cioè tra persone che non hanno contratto il virus fuori dalla Cina, quindi con i viaggi all'estero, andando in Messico, che è stato poi il focolaio da cui tutto è partito. Per il momento i casi accertati non sono tantissimi, anche tenendo conto della popolazione cinese di oltre 1 miliardo di persone, i casi sono 142, il 10% è arrivato attraverso questa trasmissione secondaria, però l'allarme è stato ribattuto nel weekend dal Ministero cinese della Sanità e ripreso poi dal China Daily, quindi anche rivolgendosi a chi cinese non è, a chi appunto certo. Legge in inglese. Quindi insomma teniamo sott'occhio questa situazione in Cina in divenire, che potrebbe poi essere sintomatica di un contesto poi magari più generale. Perché nel frattempo la notizia qui si è raffreddata. Qui no? Si è raffreddata, certo, anche se poi è arrivata questa prima vittima certo. Scozzese, se non ricordo male, sì. Insomma in questi giorni, esatto. Che ha riaperto di nuovo il dibattito sulla nuova influenza, ex influenza suina. E lui lo ha rifatto, anche se non proprio interamente, diciamo al 75-80%, anche se i giornali americani cominciano a fare gli spocchiosi. Barack Obama ha emesso un altro pronostico sportivo e ha preso anche questo. Adesso qui il fatto che stiano a dire ma attenzione, hanno vinto i Lakers in 5 partite, non in 6, e quindi non ha proprio indovinato. Questo dice comunque chi vince, il che però non è un pronostico irresistibile, insomma. Non è Nostradamus, lo prendevo anch'io che i Lakers vincevano. Va bene. Comunque l'ha fatto, è tuttora imbattuto nei suoi pronostici, poi vedremo come va a finire. Televisioni mandano immagini di festeggiamenti che poi culmineranno in una vera e propria parata mercoledì dallo Staples Center, sede delle partite casalinghe dei Los Angeles Lakers, fino al Memorial Coliseum. Costerà 2 milioni di euro, il comune di Los Angeles non ha una lira, per cui i Lakers hanno detto va bene, paghiamo noi. Anche perché tutta la California è mancata. Non che ce ne dobbiamo sentire preoccupati, perché secondo me due soldini in banca i ragazzi ce li hanno. E invece io ritorno in Cina per una notizia che in realtà abbiamo monitorato per tutta la scorsa settimana. Ci siamo concentrati su questo Gay Pride, il primo storico celebrato a Shanghai, che rimane la città più aperta, più cosmopolita, se vogliamo, della Cina. E purtroppo la censura si è abbattuta anche su questa manifestazione, che è durata una settimana, dal 7 al 14 di giugno, quindi si è conclusa ieri. Pare che ci sia stata la censura per un film e per una rappresentazione teatrale. Non sono riuscito a trovare quali film e quale rappresentazione teatrale siano state incriminate. Comunque la denuncia è arrivata dal portavoce del gruppo che ha organizzato il Gay Pride a Shanghai, che ha anche raccontato una vicenda di per sé non gravissima, nel senso che non ci sono state conseguenze, però piuttosto allarmante, perché ha ricordato che martedì scorso, durante una serata letteraria, alcuni poliziotti in uniforme sono entrati in sala. E poi il suo virgolettato recita così: non è successo niente, ma se siedi tra il pubblico e vedi arrivare dei poliziotti ti senti quantomeno intimidito. Insomma, quindi le autorità locali di Shanghai hanno controllato che tutto si svolgesse regolarmente. Non lo so, pare che abbiano fermato in alcuni bar, insomma, alcune rappresentazioni, perché il bar non aveva la licenza. Poi, come già ci ha spiegato Saro Capozzo la settimana scorsa, che era già tutto si è svolto molto, in maniera molto pacata e underground, quasi intima, nulla di pubblico. E infine una nota sul nuovo asse femminile, al femminile, la quota rosa direbbero da queste parti, che si sta stabilendo all'interno della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America. La entrante nuovo membro della Corte Suprema, Sonia Sotomayor, tra l'altro vittima di uno spaventoso incidente all'aeroporto, si è rotta una caviglia in 3 punti, poveraccia, è ingessata e lo resterà a lungo. È stata però sponsorizzata in modo entusiastico, cosa completamente fuori dalla regola, dalla altra giudice, dall'altro membro femminile della Corte Suprema, che si chiama Ruth Bader Ginsburg, che ha detto di essere entusiasta dell'arrivo della signora Sotomayor. Ha detto: mi mancherà moltissimo Justice Souter, il giudice Souter e la sua compagnia, ma non vi nascondo di essere letteralmente elettrizzata dal fatto che Sonia sarà presto con noi. E le notizie, è inutile che ve le riassumiamo, ci sono radiogiornali, telegiornali, la stessa Radio 24 che ve le aggiorna di ora in ora di ciò che sta accadendo a Teheran e nelle altre principali città dell'Iran. Ci sono manifestazioni, turbolenze, repressioni, vendette, bastoni, per non dire altro, in circolazione. L'esito delle elezioni presidenziali ha sollevato una forte onda di inquietudine e ci sono anche molte prese di posizione. Il portavoce della Casa Bianca, Robert Gibbs, dice: come il resto del mondo siamo rimasti colpiti dal vigoroso dibattito, ora continuiamo a monitorare però da vicino l'intera situazione, comprese le accuse di irregolarità, e la parola irregolarità ricorre anche tra i ministri degli esteri dei 27. Il Consiglio ha discusso i fatti, ha preso nota dei risultati annunciati, dice un comunicato, e anche delle preoccupazioni sullo svolgimento delle elezioni espresse da numerosi candidati. Noi la settimana scorsa vi abbiamo lungamente in modo spero abbastanza articolato presentato questo voto con molti esperti che hanno concordato tutti su un giudizio in particolare che sottoponevamo alla loro attenzione, ovvero l'aspettativa di regolarità di queste elezioni, che mi sembra, al di là del risultato, della condivisibilità, dell'entusiasmo, della delusione che questo risultato possa suscitare, mi sembra però il vero argomento sotto osservazione in questo momento, al che abbiamo richiamato due dei nostri ospiti più assidui e siamo tornati ad aver voglia di chiedergli un po' la stessa cosa. Il primo che abbiamo in linea è Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore da Teheran, che salutiamo e ringraziamo per la sua partecipazione. Alberto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Io ripartirei da dove ci eravamo lasciati la settimana scorsa. Si era pensato, e non solo tu, ma insomma in diverse persone hanno detto: ma come che andrà? Credo che si potrà parlare di un'elezione democratica e sostanzialmente regolare. Oggi tutto il mondo mediatico invece è scosso da un terremoto che va tutto in altra direzione. È per il risultato o è perché veramente sotto la cenere, come si dice, brucia un fuoco di preoccupazioni e di irregolarità? Ma permetto di dire che non sostenevo affatto che questa votazione fosse regolare e democratica. Venendo da più di 25 anni in questo paese, soltanto le procedure di annuncio del voto lasciavano aperti moltissimi interrogativi. Ma qui non c'è più brace sotto la cenere, qui c'è fuoco ormai. Qui abbiamo centinaia di migliaia di persone in piazza in questo momento, si sono radunati oggi a Piazza Engelab. Piazza Engelab è piazza della rivoluzione, Engelab vuol dire questo. E poi sono diretti verso Piazza Zadi. Piazza Zadi vuol dire Piazza della Libertà, dove ai tempi dello Shah si consumò uno dei più grandi massacri della rivoluzione che costrinsero poi all'esilio Mohammad Reza Pahlavi. Centinaia di migliaia di persone capeggiate da Mousavi, il capo del movimento riformista che si è presentato alle elezioni, con Karoubi e con Khatami, l'ex presidente dei riformatori, si sono avviati per questa manifestazione che è la maggiore, la più grande, la più incredibile che si sia vista dai tempi della rivoluzione. Quale esito ti viene da presagire nei confronti di quello che stai vedendo, rispetto a quello che stai vedendo? Premetto che secondo me tutto quello che sappiamo sull'Iran è sbagliato. Nel senso che ogni volta noi facciamo delle previsioni errate e molto spesso anche a breve periodo che si dimostrano totalmente poi contraddette dai fatti. Soltanto ieri sembrava che la rivolta fosse stata soffocata. Questa mattina la città si era svegliata con pochissima gente, semideserta, quasi impaurita, sospesa in questa tensione, e ci si domandava se ci fosse mai stata questa manifestazione, se si potesse mai svolgere. Non solo si sta svolgendo, ma è diventato un movimento di massa davvero difficile da capire, la cui portata è difficile da capire. Useresti la parola spontaneo, Alberto, useresti la parola spontaneo per questo movimento di massa? Io direi che è spontanea la reazione degli iraniani. Milioni di iraniani sono andati alle urne venerdì e si sono anche moltissimi che non erano mai andati a votare in 30 anni si sono presentati, credendo che fosse la volta buona in qualche modo per cambiare il governo, se non il sistema. Molioni di questi iraniani si sono sentiti defraudati dal risultato e hanno reagito. Ultima fulminante domanda, poi passiamo a Margelletti. Tu in prima persona, per quello che hai visto, per quello soprattutto che ti sembra di vedere in queste ore, credi al risultato elettorale o no? Io credo a quello che vedo. C'è un proverbio del profeta Ali che dice: la verità sta in mezzo alle orecchie, in mezzo alle orecchie ci stanno gli occhi. Certo. Per vedere, non le cose che si sentono dire. E io vedo quello che vi ho descritto prima. Certo. Cioè, anche se questo risultato elettorale fosse, non diciamo regolare, ma si avvicinasse alla realtà, probabilmente non ci sarebbero tutte queste migliaia di persone, certo, centinaia di migliaia di persone in piazza. Altrimenti non ci sarebbe stata questa reazione, che sembra essere soffocata di giorno in giorno e che poi ritorna fuori regolarmente. Come vi ho detto prima, tutto ciò che sappiamo sull'Iran è sbagliato. Grazie, molte grazie Alberto Negri. Andrea Margelletti, presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali. Buon pomeriggio Margelletti. Buon pomeriggio a voi. Sottolineare che tutte le volte che parla Alberto Negri è totalmente inutile qualsiasi altro commento, perché allora lo dico al di là dell'amicizia e della stima grande che ho per lui, ma è perfetto, quindi potete chiedermi qualunque altra cosa fuorché l'Iran, perché credo che Alberto sia stato, come al solito, eccellente e chiaro nelle sue valutazioni. Beh, io ho uno dei miei collaboratori in questo momento a Teheran, sì, e mi dice esattamente, secondo me, con minore lucidità di quanto fa Alberto, le stesse cose. Più che altro, Margelletti, Alberto Negri ne fa una questione di tempistica, cioè noi qui stiamo assorbendo e consumando la notizia e il fatto della potenziale o plausibile esistenza di irregolarità nel voto in Iran, mentre invece a Teheran si è già come dire, molti passi più avanti, si è già una reazione popolare appunto apparentemente spontanea e dalle dimensioni tutte da capire, da calcolare, ha uno stato di cose che a questo punto è veramente in divenire. Ma restando al primo punto, si era detto che ci si aspettava delle elezioni regolari, lo possiamo dire ancora oggi? Allora, proprio da voi avevamo parlato del fatto che, mi assumo tutte le responsabilità, ovviamente quello che dico, ritenevo certo, che, ci mancherebbe ancora, insomma, da genovese la coerenza è gratis, quindi non costa nulla. Va bene. Proprio il fatto che le elezioni in Iran sarebbero state certamente più regolari di quelle di tanti altri paesi. Sì. Devo dire onestamente che mi pare un po' eccessivo sostenere che le migliaia di persone che protestano siano tutti sobillatori pagati dai servizi segreti occidentali. Certo. Quindi credo che alla fine l'elemento umano, cioè il desiderio smodato contro ogni logica e volere popolare di rimanere in sella, abbia prevalso anche in Iran. Però vorrei dare una chiave, un'ulteriore rapidissima chiave di lettura, se posso. Certo. La democrazia è come l'acqua frizzante. Se la scuoti, poi non la puoi contenere, è il processo che domina te e non viceversa. Basta ricordare quello che tentò di fare inutilmente Gorbaciov. Non puoi provare a rendere democratico un sistema che democratico non è. Quindi la sensazione è che l'unica alternativa che ha il gruppo che esprime Ahmadinejad sia quello di andare avanti sulla repressione e non di aprirsi, perché se provasse ad aprirsi probabilmente perderebbe tutto. Ma anche perché a inizio XXI secolo, insomma, da parte di un centro studi internazionali, si considera plausibile a inizio XXI secolo in un paese medio orientale una sollevazione popolare che possa portare a risultati poi eclatanti come veramente il rovesciamento di un regime? È qualcosa che si può contemplare? Ma direi di sì. Oramai in realtà della comunicazione globale fanno sì che vi sia maggiore cognizione, certo, di quello che avviene intorno a te. Quindi abbiamo una comunità mondiale che è più conscia di quello che avviene a casa propria, ma anche fuori. E credo che invece forse tutti noi, esperti o sedicenti tali, a volte facciamo un ragionamento talmente cinico che perdiamo il contatto con la realtà, che invece è fatta di persone che credono e che hanno voglia di un cambiamento. Forse chi è in una qualche maniera strutturato nel processo decisionale, questa cosa un po' la perde. La gente vince, vince sempre, e quello che sta avvenendo in Iran, al di là dei risultati, è una grande sveglia di dialogo e di democrazia. I processi democratici non sono mai processi facili, la strada verso la democrazia compiuta è una strada fatta di sangue e di dolore, non è fatta, come posso dire, di accordi tra gentleman, ma mi pare che quello che sta avvenendo in Iran sia la voglia di avere un progetto a lungo termine che contempli anche l'essere, per buona parte della popolazione, parte di un progetto. Bene, bene, grazie per i loro interventi ad Andrea Margelletti, presidente del CESI, Centro Studi Internazionali, Alberto Negri, che è inviato del Sole 24 Ore da Teheran. Dichiarazioni di Benjamin Netanyahu, si succedono pareri, poi contropareri, smentite, indicazioni positive che poi diventano negative. In realtà si ha l'impressione che o non sia stato compreso tutto, sia forse stato compreso in modo troppo precipitoso, interpretato in modo come un pacchetto di proposte, mentre in realtà erano tutta una serie di ipotesi e supposizioni. Comunque Netanyahu ha detto che è disposto ad accettare l'esistenza di uno Stato palestinese, sì, ma che Stato? Sì, con quali condizioni? Obama inizialmente ha parlato di importante passo in avanti, perché l'apertura c'è stata, ma poi le correzioni rotta sono tante. Ad esempio il presidente egiziano Mubarak ha detto che l'invito rivolto ai palestinesi da Netanyahu a riconoscere il diritto all'esistenza dello Stato ebraico compromette le possibilità di pace. Poi c'è la questione di Gerusalemme, naturalmente la questione degli insediamenti, la questione della paura che ha appena pochi minuti fa Benjamin Netanyahu rispolverato in un'altra intervista. Abbiamo chiamato Maria Grazia Enardu, la nostra esperta su questo frangente, sulla questione israelo-palestinese, interviene spesso qui in trasmissione, e le abbiamo chiesto un parere riguardo al discorso ieri di Netanyahu. Netanyahu ha fatto un discorso in una cornice assai particolare, cioè l'università religiosa di Bar Ilan, e già questo era un segnale molto forte. Avesse parlato all'università di Tel Aviv, il contesto del discorso sarebbe stato molto diverso. Ha pronunciato la formula magica di due stati, aggiungendo subito però che deve essere quello palestinese uno stato smilitarizzato, senza forze armate o quello che è, e anche senza controllo aereo. Ha inoltre posto come determinante e condizionante l'accettazione da parte dei palestinesi di Israele, come Stato ebraico, questione su cui i palestinesi non hanno intenzione di fare un passo avanti. Ha insistito molto su Hamas, addirittura ha pronunciato la parola Hamastan, e poi naturalmente non ha negato l'intenzione di continuare a far crescere gli insediamenti e, parlando di Gerusalemme capitale unica e indivisibile, ha posto un'ipoteca anche su questo. Quindi sono più le condizioni che ha messo oppure l'apertura di credito ai palestinesi? C'è un discorso più rivoluzionario o in realtà non è andato oltre quello, il minimo indispensabile che soprattutto gli americani si aspettavano? Ha fatto il minimo indispensabile perché non può ora rompere con gli Stati Uniti, ma non può neanche rompere la sua coalizione. Probabilmente da parte americana, da questo momento in poi, anche perché Obama ha preso atto con soddisfazione di questa formula accettata da Israele e dai due stati, da questo momento in poi gli americani dovranno fare in modo che questo primo passo su questa strada diventi soltanto l'inizio e non si fermi qui. E invece sullo Stato palestinese smilitarizzato, messa come l'ha messa Netanyahu, sembra quasi una riserva indiana. Sì, sembra uno stato molto particolare e Netanyahu parla di garanzie che Israele chiederebbe per la sua sicurezza in sede internazionale. Forse a questo punto sarebbe anche il caso di garantire l'eventuale stato palestinese, perché sarebbe veramente piccolo, nudo e indifeso. Comunque questa è semplicemente una posizione negoziale. Su questa strada bisognerà fare parecchi passi avanti. Possiamo invece dire che le parole di Netanyahu sono state quelle di un premier che ha messo a segno, dal punto di vista almeno strategico, di tattica, una manovra positiva, perché ha a questo punto gettato la palla nel campo avverso, cioè nel campo dei palestinesi? Ha gettato la palla nel campo degli americani, perché da questo momento in poi probabilmente il presidente Obama dovrà adoperare la tecnica del forcipe, è spuntata la testolina dello Stato palestinese, e a questo punto bisognerà estrarre da Israele, senza mai un centimetro da perdere, altre concessioni per rendere questo processo vero e non semplicemente il consueto processo di pace che cammina non va da nessuna parte. E invece a casa sua, soprattutto l'estrema destra religiosa israeliana, come ha preso le parole di Netanyahu? Malissimo, malissimo. L'unica notizia consolante di questi due giorni per molta parte del paese è stata la vittoria netta di Ahmadinejad, che almeno semplifica parte dell'equazione in cui si muovono. Eh sì, certo, così almeno la questione iraniana la risolviamo con le cattive, come si dice, almeno questo avrebbe da pensare. Sicuramente questa è la posizione della destra israeliana, la tecnica del forcipe ci piace moltissimo, espresso da Maria Grazia Nardu, che ringraziamo per per il suo intervento, no? Questa testolina dello Stato palestinese che appare, bisogna afferrarla al volo. Ci torneremo sopra mentre arrivano altre notizie su questi scenari internazionali. Avviare un'indagine sul svolgimento delle elezioni, rispettare il diritto degli oppositori e la richiesta che i ministri degli esteri della Unione Europea hanno lanciato congiuntamente a Teheran. E poi riguardo a Guantanamo, gli ex detenuti saranno accolti nei paesi dell'Unione Europea e potranno circolare nello spazio Schengen come tutti gli altri cittadini dei 27. Unione Europea, in una dichiarazione comune con gli USA, ha dato il via libera al trasferimento in Europa di ex prigionieri di Guantanamo. Chiudiamo rapidamente qui Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, redazione Milano Enrico, in regia Alessandro Chiappini, oggi a Roma, e Pietro Lacorte a Milano. Mail Jefferson 2 e radio24.it, Facebook redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Replica a mezzanotte e diretta domani dopo le 4 qui da Radio 24. Ci sentiamo.